1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci. Eccoci, ero un po' in ritardo perché ho fatto un tweet. Dovevo ritweetare una cosa. Beh, avete sentito Alberto Forchielli che è tornato e ne ha regalate di ogni. Io adesso le ho ritweetate un po' di quelle che ci ha regalato. Vabbè, non sto a ripeterle. Sul mio profilo Alino Milan su Twitter le trovate. Allora, le 7:17 minuti. Oggi torneremo a parlare di questo allarme, insomma, l'inquietudine. Ora ci sono dei titoli dei giornali, francamente, l'apertura di Libero, per esempio, che inquieta un pochettino, tra poco la vedremo. Su quello che è l'allarme della Libia, no? Quello che sta succedendo, terroristi nei barconi. Ecco questo titolo: terroristi nei barconi. È davvero questo il timore? Avremo Massimo Cacciari ospite. Avremo anche Don Mussi Ezzerai, un prete etiope che vive in Italia da anni e che è molto in contatto con i migranti che partono dalla Libia. Lui conosce questo fenomeno perché lo controlla, lo segue da decenni. E avremo ospite Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Questo dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. I temi che sono sulle prime pagine, sono di apertura, sono quelli consueti di questi giorni. La Grecia per il Sole 24 Ore, l'Unione Europea frena sul piano greco, riforme subito o niente fondi. Questo è il titolo di prima pagina. Oppure il Corriere della Sera, Grecia, Obama preme per l'intesa. Mentre la Libia è l'altro grande tema. Libia lotta all'ISIS, ma l'ONU dice no all'intervento. Questa è Repubblica. Eccolo qui, Libero, terroristi nei barconi. Abbastanza inquietante come titolo di prima pagina. E addirittura il giornale, i terroristi sono già a Roma. E la caccia a due libici, i cui identikit sono stati diffusi dall'Espresso. Libia, ruolo guida per l'Italia, è il titolo di apertura del Messaggero. Mentre la Stampa torna su Atene, gli Stati Uniti ad Atene, intesa o gravi conseguenze. Oggi la proposta dell'Unione Europea. Sulla Libia aprono anche Avvenire, La Parola all'ONU e Il Manifesto. Il titolo di apertura è dedicato ad Al-Sisi, il generale golpista d'Egitto. Il titolo è Napoleone d'Egitto, perché Al-Sisi ha fatto anche un raid via terra dopo averne fatto uno via aria. E sono stati uccisi a Derna, pare, 155 jihadisti. Però... Da cosa voglio partire? Vabbè, ricordate che lunedì abbiamo avuto Mario Giordano insieme al presidente dell'ARS, Assemblea Regionale Siciliana, Ardizzone, per la vicenda dei vitalizi passati ai figli. Oggi la Sicilia regala un altro spaccato, se volete anche di trasparenza, perché come scrive Mario Giordano, ne parlavamo con Ardizzone, è grazie alla trasparenza, grazie al fatto che queste cose vengono rese note, quantomeno, che si scopre. Questa storia, Mario Giordano, prima pagina di Libero, in pensione a 53 anni a 12.000 euro al mese e li vuole esentasse. 53 anni, 12.000 euro netti al mese, è un ex dipendente della Regione Sicilia, siccome non gli sembra abbastanza, chiede alla Regione Sicilia che l'assegno gli sia versato in Tunisia. Così metto lì la residenza e non pago le tasse in Italia. Oasi fiscale al sapor di couscous, fuga dall'erario sulle ali del Ghibli, ma se la vergogna fosse acqua, quest'uomo sarebbe il deserto del Sahara. Mario Giordano racconta la storia di Paolo Modica de Moac, avvocato, consigliere parlamentare e cavaliere di grazia dell'ordine costaniano, ramo di Napoli, discendente d'antica famiglia aristocratica siciliana. Nobili natali, ignobili finali. Insomma, segno d'oro e faccia di bronzo, il suo percorso da record mondiale della furbizia. È uno di quei burocrati del Bengodi che si sono dimessi la scorsa estate per aggirare la norma sul tetto agli stipendi. Ricordate, agosto 2014, la norma diceva mai più di 240.000 euro lordi l'anno. Giusto, si capisce. Ma come sempre in Sicilia, appena fatta la legge, è trovato l'inganno. Gli alti dirigenti della regione con stipendi superiori ai 240.000 scoprirono la norma che consentiva loro di andare in pensione subito, senza subire l'onta della riduzione. Allora va in pensione, 12.000 euro al mese, e ora chiede di trasferirsi in Tunisia. pagherò le tasse là, avrebbe assicurato. All'Assemblea regionale siciliana, dove è in atto un lodevole tentativo di trasparenza e pulizia, hanno fatto un salto sulla sedia col presidente Ardizione, che dice: ci sono milioni di siciliani onesti offesi da questi comportamenti, dovremmo imparare di nuovo ad arrossire. Ecco, almeno arrossire. Vabbè, in pensione a 53 anni, 12.000 euro al mese, vuole pagarle in Tunisia. In Tunisia, non in Sicilia, in Tunisia. Allora, c'è tanto stupore, scalpore, vergogna, sdegno, chiamatelo come volete, avete sentito anche nel giornale radio, per le parole che sono state postate su Facebook da alcuni aderenti a un sindacato della polizia penitenziaria per il suicidio in cella di un ergastolano rumeno. Si è impiccato, come purtroppo spesso succede nelle carceri italiane, e sui social network di un sindacato compaiono i commenti shock: uno di meno, meglio così, speriamo abbia sofferto, era un costo da pagare, all'uscita avrebbe creato di nuovi problemi, 3 metri quadri a disposizione per qualcun altro. Ecco alcuni dei commenti che sono stati scovati da Repubblica.it e che ovviamente hanno suscitato lo sdegno. Suicidio in cella, agenti esultano sul web. C'è anche un'intervista, come abbiamo sentito anche qui a Radio 24, anche su Repubblica, intervistano Luigi Pagano, cioè il numero 2 dell'amministrazione carceraria, che dice: sa cosa c'è che mi fa particolarmente male di questa storia? È il ricordo di tutte le volte in cui ho visto colleghi correre per salvare detenuti coi polsi tagliati o col collo in qualche cappio. Ne hanno salvati tanti e li ho visti piangere quando non ce la facevano. Quei commenti sono un pugno alle nostre divise, al nostro impegno, al nostro lavoro. C'era arrivata una segnalazione, avevamo avviato già un'indagine interna per scoprire questa cosa indegna. Individuate 12 persone, dice il DAP, cioè l'amministrazione penitenziaria, ora provvedimenti severi nei confronti di questi agenti di polizia penitenziaria. La vicenda la trovate davvero su tutti i giornali, come trovate la vicenda della piccola bambina che, ricordate, in Sicilia è morta perché nata in una clinica privata con una grave patologia. È stata trasportata in ritardo, non c'era posto, alla fine c'era un posto a Ragusa, telefonate al 118, ecco, le telefonate al 118 ora sono pubbliche, sono pubblicate dai giornali, e come racconta Felice Cavallaro, tra l'altro nel giorno in cui il ministro Beatrice Lorenzin ha detto molto probabilmente c'è la possibilità di commissariare la sanità siciliana, attenzione, commissariare. Oggi l'assessore regionale siciliano Borsellino, Lucia Borsellino, andrà a Roma per parlare col ministro e c'è la possibilità che oggi arrivi il commissariamento della sanità siciliana. Ebbene, racconta Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, pagina 21, chi ha ascoltato le registrazioni audio del 118 sull'emergenza scattata sulla piccola Nicola appena nata senza che si trovasse un posto di terapia intensiva in 4 ospedali di Catania può solo augurarsi che ai genitori e ai nonni venga risparmiato lo strazio di quelle conversazioni fatte di cinismo, sciatteria, indolenza, definite vomitevoli dagli inquirenti e dal presidente della commissione sanità in Sicilia, vomitevole la telefonata tra il pediatra Antonio Di Pasquale e l'operatore 81 del 118, infermiere dalla voce assonnata, pronto a chiamare le unità di intensiva con un atteggiamento da routine, accontentandosi dei continui non c'è posto, occupati, senza sottolineare la gravità del caso. Poi sbaglia anche i numeri, in un caso invece di telefonare a Ragusa chiama Catania, scambia la richiesta di un'incubatrice con quella di un'ambulanza, insomma perde altro tempo prezioso e conclude, finita la vicenda, quando all'ennesima telefonata gli dicono: guardi che ormai la bambina è morta, dice: e dottore, dov'è la nostra colpa? Mi faccia capire. Allora, se è morta, disdico il posto a Ragusa prenotato? E all'interno di questo finale delle telefonate assurde, tutte sbobinate sul Corriere. Allora, ho fatto una ricerca, l'unico posto è a Ragusa, e continua a dire questo operatore, e il dottore, il Il pediatra gli fa notare: guardi che è intubato il bambino, il neonato, è una cosa grave, non può andare a Ragusa, è necessario trovare un posto, bisogna forzare la situazione. No, non possiamo portarlo a Ragusa, non è possibile, non c'è posto. Ma guardi che ci vuole una soluzione e bisogna fare una forzatura, insiste il pediatra, sono cose che succedono ogni 2 anni, io non lo posso fare. Se vuole le do il numero di Ragusa, ma no, lei deve forzare la situazione con il policlinico. Insomma, va avanti così insieme a una serie di telefonate assurde, in cui evidentemente non si capiscono, l'operatore non capisce la gravità della situazione, finché a un certo punto sbaglia addirittura numero e poi alla fine quel commento incredibile: mi faccia capire, che colpa è? No, se è morta. Allora disdico a Ragusa, già che ci siamo? Ecco, vomitevoli queste telefonate definite da un politico in Sicilia. Vabbè, ma questa su Libero, cioè, è ovvio che vince la sezione, il premio oggi, Mani sul volante, per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. Proprio Mani sul volante, letteralmente, letteralmente, cari italiani. Succede a Roma, c'è un video che gira su Facebook. Caterina Magnaci ne racconta, pagina 15 di Libero. Alcuni rom sono stati pizzicati a prelevare una macchina della polizia, proprio una volante della polizia, e hanno fatto un video nel quale sgommano in un parcheggio, poi si fermano, zingari a spasso con la volante della polizia. Una famiglia con bimbi sgomma su una pantera, la pantera, c'è cioè una macchina della polizia, nel campo rom. È la questura che dice: dobbiamo capire dove l'hanno presa. E c'è questo video che gira con la macchina della polizia che sgomma nel campo rom. Vi rendete conto? Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi farci niente. Allora, cari ascoltatori, sempre in primo piano c'è la vicenda Libia, il timore. La palla ora viene messa nettamente nelle mani della comunità internazionale e dell'ONU. Questo ha detto anche il ministro degli esteri Gentiloni, ieri intervenuto alla Camera, oggi al Senato. Ieri in una camera peraltro deserta, quasi deserta, ha parlato Gentiloni. Dunque, soluzione politica, soluzione di intervento internazionale, l'ONU. Questi sono gli appelli da parte del governo italiano, ma non solo del governo italiano, anche il generale egiziano al-Sisi, ricordiamo, colui che peraltro ha fatto un raid sia aereo e poi di terra ieri a Derna, uccidendo 155 islamici, jihadisti islamici, però chiede un intervento dell'ONU. L'Italia pronta a un ruolo guida. Tra l'altro, Repubblica fa notare a pagina 6 con Francesco Bei che c'è una sorta di raffreddamento, mentre ieri il Corriere della Sera diceva l'Italia spinge per Romano Prodi mediatore. Francesco Bei su Repubblica racconta oggi il contrario, e cioè che l'Italia non sta pensando a Romano Prodi, nel senso che l'Italia non ha alcuna intenzione in questa fase di avanzare candidature proprie, perché sarebbe un errore tattico che potrebbe pregiudicare tutta l'operazione facendo scattare sospetti e veti incrociati. Ha fatto notare Repubblica che ieri Renzi e Prodi erano entrambi al funerale, all'ultimo saluto per Michele Ferrero, il patron della grande azienda, e però non si sono scambiati neanche un solo sguardo. Si legge anche, secondo Repubblica, da questi linguaggi del corpo, una sorta di freddezza tra Renzi e Prodi sul tema Libia. Però, insomma, staremo a vedere. Certo, dal punto di vista della sicurezza ci sono alcune notizie da vagliare, alcune notizie da prendere con le pinze, altre francamente forse esagerate, però si sa, scatta in questi casi anche un po' di panico. Certamente Fiorenza Sarzanini, che sarà tra i nostri ospiti dalle 8:15, racconta sul Corriere della Sera, pagina 6, l'ENI fa rientrare il personale italiano. Racconta soprattutto in quest'articolo che addirittura, pensate cosa è successo qualche giorno fa, è scattato un allarme aereo in Italia. nel senso che il sistema di difesa aerea italiano è entrato in stato di massima allerta per un avviso trasmesso dai servizi segreti, una segnalazione in cui si parlava di alcuni aerei pronti a decollare da Sirte per colpire il nostro paese. Per la verità non c'è stato poi alcun riscontro, ma la tensione è rimasta per alcuni attimi altissima. Mentre il Corriere della Sera, ma anche Repubblica, fa sapere che gli 007 italiani reputano assolutamente non credibile la possibilità che i jihadisti utilizzino barconi in modo strategico per colpire le compagnie marittime e le navi dei crociati. Questo era il messaggio, cioè l'idea che si usino barconi per colpirci, magari con kamikaze a bordo, viene considerata un qualcosa di altamente improbabile. Infatti, ecco qui il circuito mediatico. Libero, titolo di prima pagina: terroristi nei barconi. I terroristi arrivano sui barconi, titolo dell'editoriale di Maurizio Belpietro, il direttore. Anche il giornale: jihadisti sui barconi per l'Italia. La verità è che questo lo ha scritto il Daily News, citando fonti di intelligence. Le fonti di intelligence italiana smentiscono, però sui giornali trovate un po' di, questo sì, terrorismo, nel senso che crea certamente un po' di terrore, di allarme in tutti noi sapere che ci sono dei barconi pronti a farsi esplodere contro le nostre navi. Come suscita molta preoccupazione certamente quello che scrive l'Espresso, che ha diramato due identikit fatti avere ovviamente dai servizi segreti di due cittadini libici che sarebbero già a Roma e avrebbero tentato in questi giorni di comprare, o meglio hanno comprato del materiale bellico, un visore notturno e un giubbotto antiproiettile, e comprano armi e munizioni a Roma e caccia a due libici. Questo lo trovate un po' ovunque, il Secolo XIX lo mette a pagina 3, l'antiterrorismo setaccia il mondo della malavita, racconta Marco Menduni. Ci sono anche gli identikit, appunto, che sono stati diffusi anche in rete, pubblicati anche dall'Espresso, domani quindi li vedremo. La nota è stata diffusa a tutte le pattuglie dei carabinieri, non lascia dubbi sulla pericolosità di questi soggetti definiti islamici pericolosi sospettati di terrorismo. In caso di rintraccio, fermarli con le dovute precauzioni, perquisirli sul posto, accompagnarli in caserma informandone subito il comandante. E si stanno soprattutto cercando i quartieri dell'Esquilino e il Pigneto, due zone caratterizzate da robusta presenza multietnica, e lì si trovano anche due moschee molto frequentate. Ora, se abitate in questa zona, adesso non è che mi cadete nel panico, io ve lo devo dire, nel senso che i giornali hanno questa funzione anche di dare questa notizia, e così viene diffusa dai giornali oggi. Vi segnalo anche un'intervista che il giornale fa, inizia in prima pagina, poi pagina 2-3, a uno che di Libia comunque se ne intende, Paolo Scaroni, è stato a capo dell'ENI per tanti anni, ora è vicepresidente di Rothschild Group, per 9 anni è stato numero uno dell'ENI. L'Egitto e l'Algeria ci salveranno dall'ISIS. Questo è il titolo dell'intervista di Riccardo Pellicetti a Paolo Scaroni. Dice della Libia Scaroni: è un piccolo paese, quindi sono ottimista. Ha 6 milioni di abitanti, ha molte risorse, anche coi prezzi del petrolio a $50 al barile, tutti i libici potrebbero vivere di rendita, non è un problema di sopravvivenza. Quindi credo che alla fine il buon senso prevarrà. Poi, i due fratelli maggiori della Libia, cioè Egitto ed Algeria, vedono come la peste uno stato jihadista alle porte di casa, faranno di tutto per evitarlo. L'Egitto dispone di un esercito forte, di grande tradizione, Al-Sisi ha fatto una sorta di colpo di stato, poi legittimato dalle elezioni, e ha l'appoggio politico ed economico non solo dell'Occidente, ma anche di quei governi che vedono i fratelli musulmani come una minaccia, per esempio Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi. Il Cairo ha una tradizione di rapporti con la Libia e non tollera i fratelli musulmani, figuriamoci l'ISIS. Ecco perché ho fiducia. Perciò, ripeto, sono ottimista. La minaccia terroristica, dice Scaroni, ma l'Europa ce l'ha soprattutto in casa. Finora la maggior parte degli attentati è stata compiuta da militanti islamici che vivono qui da anni. Il problema ce l'abbiamo, per esempio, i continui sbarchi di immigrati sulle coste italiane, ma non credo sia quello il canale usato dal terrorismo. Questo Paolo Scaroni. A proposito di Immigrazione, oggi sul Sole ci sono dei conti interessanti, li fa Marco Ludovico, la cifra è questa, tenetevi forte, tenete sempre le mani sul volante, potete farlo se siete alla guida. Pagina 6 del Sole, tra sbarchi e gestione dei centri e personale, l'immigrazione ci costa almeno 1 miliardo l'anno, almeno 1 miliardo di euro. La macchina dell'accoglienza assorbe 600 milioni, poi ci sono ovviamente i controlli. Questo sul Sole 24 Ore con Marco Ludovico, che snocciola le cifre a pagina 6. A proposito di questo tema, oggi c'è un'intervista al ministro della giustizia Andrea Orlando sul Corriere della Sera che a me rende francamente perplesso, e lo dico come un eufemismo. Il titolo è questo, vi giuro, io l'ho dovuto rileggere 3-4 volte perché non ci volevo credere. Più diritti agli islamici in carcere per evitare che passino al jihad. Questa è la teoria del ministro della giustizia Orlando. Far sì che il rispetto dei diritti dei detenuti di religione islamica, oltre che doverosa applicazione dei principi costituzionali, sia anche strumento per prevenire la radicalizzazione e il reclutamento fondamentalista, una via per contrastare il proselitismo di chi si vede come nemici dell'Islam. Insomma, il dato di partenza è una popolazione carceraria con 10.000 ristretti provenienti dai paesi musulmani, e allora, dice Orlando, alcuni autori dei gravissimi attentati che si sono verificati a Parigi, a Copenaghen, hanno visto nascere o crescere il loro estremismo nelle prigioni, e dunque la risposta giusta è garantire, far rispettare i diritti la cui negazione è il primo presupposto del reclutamento radicale. Non lo so, ripeto, i diritti in carcere vanno garantiti a tutti, senza distinzione, quindi a tutti, anche i musulmani. Garantire più diritti agli islamici per evitare che passino al jihad. Ripeto, sono eufemisticamente perplesso per questa uscita del ministro Orlando. Ma saluto Mauro Meazza, del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno, tornano le coppe! Le coppe! Buongiorno, come hai fatto ad accorgersene? Ho visto la prima della Gazzetta, certo, il calcio maggiore. Per quello, perché mi sembrava che tu non fossi interessato alla... Grandi coppe, proprio coppe del mondo stasera. Le coppe che ci sono, caro, purtroppo il periodo è quello che è, però sì. Ti voglio dire che oggi torna anche il giornale della famiglia, ti avevo già segnalato ieri che col giovedì, seconda uscita del giornale della famiglia con il Sole 24 Ore, tu che sei così appassionato delle monete, con questi due urini che continui a far girare da una tasca all'altra, da un paese all'altro, allora oggi spieghiamo che cosa muove non i tuoi due urini, che vabbè, lasciamo stare, ma proprio le valute, in senso della svalutazione, i rapporti tra gli stati, l'euro e il non euro, tutto questo nelle 4 pagine del giornale La Famiglia, oggi con il Sole 24 Ore, seconda uscita, la prima giovedì scorso e questa oggi, quindi mi raccomando, studia, preparati, così anche i tuoi due urini potranno contare su una formazione migliore. E poi ti voglio dire, hai apportato in mano il calendario, dovresti segnare questa data, 27 giugno. Mamma mia, ragazzi. No, non c'è da pagare, stai tranquillo. 27 giugno è perché è il nuovo orizzonte per la riforma del fisco. Okay. Sai che allora, domani 20 febbraio, giornata decisiva per una parte la riforma fiscale, soprattutto decisiva per il Jobs Act, e oggi ci sono ancora degli approfondimenti sul Sole 24 Ore sulle misure che saranno affrontate domani in Consiglio dei Ministri, con le ultime questioni da chiarire sui licenziamenti collettivi. Ecco, domani 20 febbraio, poi l'orizzonte per completare la riforma fiscale. 27 giugno, l'hai scritto? L'ho scritto, eccolo qua. No, perché poi magari arriviamo alle prossimità. Non vedi che l'ho scritto. Ho visto che l'hai scritto, ma mi sembrava che non fossi stato tanto ordinato. Poi ci sono gli stipendi dei manager di Stato, hai visto? Sul Sole 24 Ore, certo. Con Ecco, con quanto prendono i mezzi di Stato, effettivamente meno, va detto, meno di quanto di me, sì, beh, sicuramente, questo non era neanche in discussione, caro Alessandro, però, meno di quanto prendono altri manager in società quotate private. Vabbè, tutto ciò premesso, caro, ti dico che c'è stato un incontro tra Uber e l'autorità di vigilanza, lì si cerca di disinnescare questo problema che sta generando anche, come sai, delle tensioni da ultimo a Torino, perché ti parlo di taxi e di viabilità proprio adesso, e per poterti dire la nostra parola conclusiva. Traffico. Fornetti caldi per tutti, Alessandro Milan, il Perozzi dell'informazione. Oh, prima avevamo la supercazzola come fosse Antani e adesso il Perozzi. Allora, la politica italiana, vabbè, ma è veramente, almeno se c'è una cosa importante e bella che possiamo leggere dal fatto della Libia, della Grecia, è che tutto questo ha annullato le noiose, inutili, sterili, puerili discussioni sulla politica italiana. Le 10 pagine di nulla sui giornali adesso sono ridotte a 2-3. Dal fronte Forza Italia, Berlusconi punta a annichilire Fitto. Questa è almeno la lettura di Repubblica. Annichilire Fitto. Ma Berlusconi è anche in questo momento ancora sotto, sotto attenzione da parte della Procura di Milano, che vuole scoprire tutta questa vicenda di come mai le ex olgettine, quelle delle cene eleganti, vivano con un tenore di vita eccessivamente alto per persone che non professano un lavoro o non si sa bene che lavoro facciano. E eccolo qui, per esempio, un fiume di denaro da Arcore a Rubi e caccia il contratto con le olgettine. Repubblica, con Piero Colaprico e Emilio Randaccio, fa sapere che il tenore di vita di Rubi, rubacuori, ve la ricordate, è questo. Se deve andare da Milano a Genova, prende il taxi. Il taxi, Rubi. Taxi. Da Milano, dove deve andare? Da Milano. A Genova, grazie. Oppure di recente ha fatto fare un preventivo per vacanze alle Maldive, 3 preventivi dai 50 ai 70 mila euro, e poi è andata. Allora si dice, ma dove prende tutti questi soldi? La vacanza sul Corriere della Sera di Rubi è diventata di 90 mila euro, da 70 a 90 mila euro da Repubblica a Corriere, quindi un aumento di 20 mila euro girando pagina o cambiando quotidiano. No, la notizia invece però interessante, riguardante anche Berlusconi e riguardante il Fatto Quotidiano, è proprio l'apertura. L'ho tenuta adesso, non l'ho citata all'inizio perché almeno voglio concentrarmi un attimo. Il Fatto Quotidiano titola così oggi in prima pagina: l'editto bulgaro bis. È una lettera che il Fatto Quotidiano ha scovato e che risale al 2010, quando cioè Berlusconi era ancora al governo, una lettera che gli fu mandata da Antonio Verro, allora e anche ora uno dei membri del CDA della RAI. In questa lettera, inviata da Antonio Verro, si legge: ci sono 8 trasmissioni antigovernative, mettiamo paletti relativi a composizione del pubblico, strettoie organizzative, scelta degli ospiti, e nominiamo Susanna Petruni direttore di Rai 2. Cioè dei consigli da parte di Antonio Verro, scrive il Fatto, una sorta di editto bulgaro 2.0, blocchiamo 8 programmi che mi fanno preoccupare perché molto antigovernativi. Per la verità, il Fatto Quotidiano con Carlo Tecce va anche a chiamare, a intervistare Antonio Verro, che dice: questa lettera, io ho un rapporto con Berlusconi da 40 anni, ma può darsi anche che gli abbia scritto, ma non ricordo questa lettera, ma si è datata a Roma 25 agosto 2010. E lei pensa che io potessi essere a Roma in agosto? Ma sì, si scrive che lei era a San Siro la domenica precedente, aveva incontrato Berlusconi. Ah, possibile. Dunque, vada avanti. Lei scrive anche di nominare Susanna Petruni, direttore di Rai 2. Ah, allora no, impossibile che abbia potuto scrivere questo, indicare il nome della Petruni. No, no, no, smentisco questa lettera al 102%. Così Antonio Verro, comunque, è l'apertura ai pagina 2-3 del Fatto, che definisce questo un editto bulgaro 2.0. C'è molto ancora di Grecia, c'è molto anche di Renzi che ieri è andato a Torino, tra l'altro ha detto questa frase sulla quale io, ripeto, ho anche twittato: voglio trovare uno in Italia che non la pensi così. Ha detto Renzi: è ridicolo non dire in Italia che ci siano delle università di serie A e delle università di serie B. È una roba talmente indiscutibile, ma in Italia si discute tutto. Si discute tutto. Renzi e le università, ridicolo non dirlo, c'è serie A e serie B. E poi ha anche attaccato i gufi. I gufi, ah, evidentemente anche noi siamo un po' gufi se raccontiamo delle cose che non vanno in Italia, per il Presidente del Consiglio. Perché dice: si confrontano due racconti dell'Italia, uno nauseabondo di un paese pigro, irriformabile, e l'altro di un luogo dove tutto è ancora possibile. Va bene, al di là del racconto, poi uno guarda le cose e sembra abbastanza irriformabile, effettivamente, oggettivamente. Però, vabbè, mi iscriverò alla LIPU, alla Lega Italiana Protezione Uccelli. Allora, per il resto, che cosa c'è? C'è anche una pagina, vi segnalo, sul testamento di Sordi, della sorella di Sordi, impugnato da 37 cugini, come racconta Andrea Garibaldi sul Corriere della Sera, pagina 25, la decisione di impugnarlo nonostante Alberto Sordi continuasse in vita a dire: io non ho parenti, nel senso che non ho mai visto un parente e parenti non ne conosco e non ne ho. Sono spuntati invece 37 cugini a dire il testamento della sorella Aurelia, unica erede di Alberto Sordi, non è valido perché lo scrisse senza essere cosciente. 37 cugini spuntati. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa. Oggi, al giorno, mezza pagina su quanto dormono i grandi leader. Winston Churchill, Margaret Thatcher, Obama, Bill Gates. Quante ore dormono a notte? Ma chi se ne frega!